Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Di agenda digitale si parla ormai da anni, dato che lo sviluppo delle infrastrutture di rete, soprattutto della banda larga, e l'informatizzazione di molti servizi, in particolare nella pubblica amministrazione, sono considerati passaggi cruciali per la competitività del paese. Tuttavia, insomma, poco è stato fatto. Mentre i dossier sull'Italia digitale, chiamiamola così, saltavano dal tavolo di un governo a quello del governo successivo, fino ad arrivare all'ultimo, e di recente è spuntato un piano di crescita digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in pratica ha avvocato a sé questa materia e che promette di investire su questo asse circa 10 miliardi di euro, buona parte di provenienza europea, da qui al 2020. Tra i principali ideatori di questo piano c'è Francesco Sacco, docente di economia all'Università dell'Insubria di Varese e anche all'Università Bocconi di Milano, e membro appunto del tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale della Presidenza del Consiglio. Buonasera Sacco. Buonasera a tutti voi. Allora, intanto questo piano prevede sia un asse, diciamo, dedicato alle infrastrutture, sia un asse dedicato allo sviluppo di nuovi servizi informatici. Quali sono le criticità che ci dobbiamo aspettare lungo il percorso, sperando di compierlo questo percorso, e se più sul lato infrastrutturale o più sul lato dello sviluppo dei nuovi servizi? Ma io ho lavorato più sul tema delle infrastrutture, ma in tutta onestà il nostro, come italiani, il problema del paese è quello sulle cosiddette infrastrutture software, sulla parte dei servizi, dove c'è il vero problema o la vera opportunità, perché i servizi sono quelli che cambiano davvero la vita quotidiana delle persone, la rendono più facile, la rendono più semplice. E quando parliamo di servizi parliamo, no, come dire, di tutti i rapporti che abbiamo con la pubblica amministrazione, che possono essere naturalmente finire sulla rete. Parliamo della carta di identità, della patente finalmente digitale e quant'altro. Ma perché lei dice più difficili i servizi che non fare l'infrastruttura? Perché quando si vanno a toccare i servizi, quando si mette in digitale tutto un mondo di burocrazia, logico che le resistenze sono forti, sono per certi versi comprensibili, sono per altri versi non accettabili. Oggi è possibile, portando in digitale tutto, liberare l'informazione, renderla più facilmente accessibile e soprattutto accessibile a tutti, a tutte le condizioni. Se prendiamo una legge, una qualsiasi legge, una buona legge, è fatta come un software, cioè o dichiara delle cose oppure come un algoritmo dice per fare determinate cose, per ottenere un permesso, per riuscire a fare un'opera, devo fare questo, questo e quest'altro. E come per caso di un software, per una buona legge, dovrebbe essere possibile monitorare i tempi, dove si è fermato, qual è lo stato. Ecco, quando invece intervengono le persone, molto spesso, non dico che non ci siano le eccezioni perché la realtà, la vita è complicata, ma quando intervengono le persone diventa tutto un po' più soggettivo. Un po' più soggettivo, un po' più fumoso. Insomma, la conoscenza dei processi, di quant'altro, è potere, e nel momento in cui diventa tutto trasparente, insomma, qualcuno perde del potere in buona sostanza, no? Forse sì, alcune possiamo dirla così. Le strutture sono fondamentali, per esempio l'anagrafe digitale è quello che potrebbe tranquillamente impedire ai morti di prendere le pensioni, che semplificherebbe enormemente la vita di noi cittadini tutti i giorni. Non ha senso che ogni volta che dobbiamo fare una domanda dobbiamo mettere tutte, certo, le nostre informazioni. Assurdo. Il codice fiscale o un codice nuovo, di nuovo tipo, di nuova generazione, ha già tutte le informazioni, lo Stato ha già tutte le nostre notizie. Perché dobbiamo ridargli notizie che in realtà lo Stato sa già? Ecco, un mondo di infrastrutture più semplice, dove lo Stato mi aiuta, mi informa che qualcosa che mi riguarda è cambiato, che ho ottenuto un permesso, che posso fare qualche cosa e mi sta a fianco. Ma non c'è bisogno di grandi investimenti per questo, ma un grosso, enorme cambiamento di mentalità, questo sì. Lei parla proprio di infrastruttura software, perché diciamo, ha senso utilizzare questo termine? L'ha usato anche poco fa. Ecco, un'infrastruttura è un qualcosa che serve a qualcos'altro per funzionare meglio, è qualcosa che sta alla base. Noi oggi abbiamo bisogno, per fare un salto di cui avremo bisogno come paese nel suo complesso, di infrastrutture software, cioè qualche cosa che serve a tutto. Faccio un esempio, l'identità digitale è un'infrastruttura software perché deve essere utilizzabile su un telefonino, perché oggi le persone hanno soprattutto in mano un telefonino, uno smartphone, ma deve poter servire a tutta la pubblica amministrazione, comune, regione, stato centrale, ma anche ai privati, perché è molto più semplice ricordarsi e mantenere in sicurezza un username e password che non decine e centinaia. Questo è un'infrastruttura, perché è a vantaggio di tutto un ecosistema del software. Un po' come i sistemi operativi, insomma, no? Io ho un computer, ma se voglio voglio poterlo usare con un minimo di semplicità, senza scrivere in linguaggio macchina, ho bisogno di uno strato intermedio, no? Che è questo, ecco, sistema operativo? Il paragone è giusto, è come se tutte queste cose stessero cambiando il sistema operativo del paese, che sta diventando e deve diventare digitale, perché digitale vuol dire democratico, vuol dire per tutti, vuol dire semplice, vuol dire che soprattutto si può fare e si vede l'effetto. Grazie, grazie Francesco Sacco. Arrivederci. È tutto, a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.